l'ho chiusa, è piedi dritti, allora, che nessuno è bella. Sì, in realtà tu sei già sulla punta di fronte, tutto quello che stai però tenta di... Ma anche con l'altro?